100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il titolo della Fiat questa volta ha tenuto, ma le incertezze del mercato su quale sarà il futuro della casa automobilistica italo-americana restano molto alte. Le nuove dichiarazioni di Sergio Marchionne, che la scorsa settimana ha detto che le resistenze della GM a una fusione con Fiat Chrysler lo potrebbero portare a cercare dell'avanzo con Ford, Volkswagen e Toyota, non hanno esattamente convinto un mercato che già da tempo sente parlare di possibili unioni della Fiat con altre grandi case automobilistiche, ma ancora vede ben pochi risultati. In questo momento le case automobilistiche sono più orientate a gestire bene la loro produzione che a cercare integrazioni improbabili, soprattutto con un gruppo come la Fiat, che in questo momento si sta muovendo molto bene, ma soltanto grazie alla Jeep. I fuoristrada della casa Chrysler, prodotta in America ma anche prodotta in Italia, stanno un po' spopolando su tutti i mercati, ma la preoccupazione che c'è in questo momento non riguarda tanto i modelli americani, quanto soprattutto il debito, che è ancora molto alto sulla casa di Torino. 5 miliardi sono tanti e per trovare nozze bisognerà smaltirli un po' prima di ripresentarsi sull'altare. Questo è un po' il messaggio che danno gli operatori. La scorsa settimana Marchionne ha detto che è necessario trovare un'aggregazione per la Fiat che generi almeno 10 miliardi di dollari l'anno di risparmi, ma in realtà prima di unirsi dovrà fare una bella pulizia di bilancio per rendere soprattutto attraente e conveniente un'unione con un grande produttore europeo. Questo è un po' lo stato del mercato. Certamente per la Fiat si apre un periodo delicato, quello dove non basterà annunciare promesse, ma soprattutto annunciare risultati che vanno oltre quelli della Chrysler. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. La ripresa del mercato del lavoro continua a singhiozzo. Dopo il calo del 17% registrato nel ritmo delle assunzioni a gennaio, la situazione dei nuovi contratti è migliorata solo leggermente a febbraio, con un calo del 12% sullo stesso mese del 2015. Nel complesso, il settore privato ha stipulato 341.000 contratti a febbraio, una contrazione che per gli esperti del mercato del lavoro è dovuta quasi interamente alla caduta dei contratti a tempo indeterminato, quest'anno non più sostenuti dagli incentivi fiscali alle nuove assunzioni. In cifre, le imprese hanno firmato i due mesi fa 46.000 contratti a tempo indeterminato in meno, con una flessione del 33%, che è più o meno in linea con quella registrata a gennaio. Stabili invece i contratti a tempo determinato, in totale 231.000, mentre una lieve flessione si è verificata nei contratti di apprendistato, 15.000 nuovi posti, il 3% in meno su un anno fa. Senza la spinta degli incentivi e davanti alle incertezze sulla ripresa economica, insomma, le imprese hanno tirato il freno sulle assunzioni, che se calcolate nell'arco degli ultimi 12 mesi presentano comunque ancora un salto annualizzato positivo, 530.000 unità. Il messaggio che viene dai numeri parla dunque chiaro: il lavoro italiano ha ancora bisogno di sostegno, sia che si tratti di sgravi, sia di vere politiche industriali del lavoro. Quando si parla di occupazione, stare fermi significa tornare indietro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.